Sebbene i media ufficiali non ne parlino o ne parlino solo in maniera molto marginale, gli scioperi qui in Francia continuano e crescono in partecipazione. Dopo i numeri già molto alti della prima giornata di sciopero, di cui avevamo parlato qui su Radio Città Fujiko, c'è stata una seconda giornata di sciopero nazionale molto partecipata che ha visto aumentare ulteriormente i numeri della partecipazione per lo stupore probabilmente tanto del governo quanto dei sindacati. Se alla prima giornata avevano partecipato 400.000 persone a Parigi e 2 milioni in tutta la Francia. Questa volta i numeri sono stati di 500.000 a Parigi e di 2 milioni e 8 in totale in Francia. Quindi sono numeri che, se li compariamo con quelli italiani, è come la mobilitazione del 2003 quando si riempì il Circo Massimo a Roma. Il governo non ha bloccato la riforma nonostante la contrarietà di tutti i sindacati, per tradurla ancora una volta in termini italiani, dalla CISL fino ai sindacati di base, passando per la CGIL e tutti i sindacati professionali, c'è un'unanimità nell'opporsi all'aumento dell'età pensionabile a 64 anni. Il fatto che il governo non abbia bloccato la riforma e che continui come un rullo compressore e cercando addirittura di accelerare, rincorrere, diciamo, la velocità della partecipazione alle manifestazioni, ha imposto ai sindacati di aumentare il livello della mobilitazione. Se prima appunto si faceva uno sciopero ogni 2 settimane, questa settimana vedrà ben 2 giornate di sciopero, una domani e la seconda sabato. Questo sia per mettere pressione al governo, sia per permettere a quei lavoratori, specie nei servizi pubblici, che per diciamo il loro ruolo svolto, in alcune occasioni non possono scioperare per garantire un livello minimo di servizi, vigili del fuoco, polizia, sanità. La seconda cosa è che il livello di mobilitazione cresce e crescerà ulteriormente, probabilmente, soprattutto in quei settori in cui i sindacati sono particolarmente organizzati e particolarmente forti. C'è stata un'iniziativa che ha fatto molto eco qui in Francia, che viene chiamata Robin dei contatori, perché i sindacalisti della CGT, uno dei sindacati della sinistra francese, hanno deciso di mettere in atto ben 2 iniziative. La prima è quella di togliere la luce a quei deputati e a quei senatori che sostengono la riforma. Questo ha fatto molto discutere in Francia, ma è stata anche un'iniziativa che ha avuto una grossa eco a livello popolare. La seconda è quella di riattaccare i contatori a quelle famiglie e anche a quelle attività commerciali, piccoli commercianti, artigiani, ma anche ai comuni, alle piscine, alle librerie e a tanta parte della sanità francese che a causa degli aumenti della luce elettrica o del gas non arrivano più a pagare e sono stati staccati dagli operatori elettrici e del gas e che quindi si trovano al freddo e senza luce. Uno stacco che in realtà in Francia sarebbe illegale. Non si possono fare stacchi come non si possono fare sfratti durante il periodo invernale, per un decreto legge che viene rinnovato ogni anno. Bene, i lavoratori organizzati hanno deciso di ridare la luce a tutte queste utenze. Probabilmente il livello della mobilitazione continuerà ancora a crescere. Personalmente mi aspetto dei blocchi a livello dei mezzi di trasporto, dalla metro di Parigi ai treni, e delle occupazioni tanto delle centrali elettriche, anche quelle nucleari, quanto delle raffinerie, una cosa che creerebbe ancora una volta, come era già successo in ottobre, una scarsità se non un'assenza di carburante. Vedremo quale sarà la risposta del governo a queste mobilitazioni e vedremo se questa volta il livello della mobilitazione, che è molto simile a quella del 95, riuscirà come allora a bloccare questa riforma delle pensioni.